Berlino, Parigi, Londra, tre capitali, tre paesi, tre lockdown, una sola pandemia. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The wave of new cases in Europe is forcing France and Germany to go back into lockdown. A national lockdown for England, the Prime Minister said, was now the only option. France's president said last night the new spike would be harder and deadlier than the first. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati. Un buon lunedì, gentili ascoltatrici e ascoltatori. 16:09 in questo esatto istante. Inizia una nuova settimana. Con me ci sono sempre Antonio Natalia, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo e regia Valeria Bernardi. Così come il numero da comporre per SMS, WhatsApp, domande e commenti è sempre lo stesso, 349-238-6666. Facebook, nessun luogo lontano trattino Radio 24, Twitter, se amate questo social, cinguettate pure. Gli account sono nessun luogo 24, ovvero Giampaz. In attesa della super scorpacciata elettorale in salsa statunitense, vi anticipo che buona parte dei programmi qui a Radio 24 saranno dedicati a questo importante appuntamento fin dalla serata nottata del 3 di domani, quindi da Effetto Notte a Gigi Donnelli che si farà la levataccia alle 6 del mattino per raccontarvi i primissimi esiti, se vi saranno ovviamente, e poi a seguire tutta la programmazione ovviamente avrà un occhio di riguardo per le elezioni più importanti degli ultimi anni e noi naturalmente ci metteremo del nostro con due puntate speciali. Oggi di che cosa parliamo? Beh, Francia, Germania e Regno Unito in questi giorni stanno per attuare chiusure molto estese per fronteggiare la seconda ondata di coronavirus. Ci domandiamo in che modo e con che esiti sperati. Fronteggiare uno stato di emergenza ha a che fare con il rapporto fiduciario tra politica e società civile, ma non solo. Ha a che fare con la leadership, con la struttura di governo e amministrativa, con il tipo di società, oltre naturalmente allo stato di salute dei sistemi sanitari coinvolti. Il virus è uno, ma le risposte sembrano essere tante. Esiste un modello europeo e ancora una volta dobbiamo riscrivere forse un nuovo patto tra politica e società. Questa è la puntata di quest'oggi, questi temi che vi proponiamo. 349-238-6666 e intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Afghanistan per raccontarvi l'ennesimo attacco, probabilmente di matrice talebana. Alle 11 di questa mattina tre aggressori sono entrati nel complesso dell'Università di Kabul, la capitale. Una volta entrati nelle aule della facoltà di giurisprudenza hanno aperto il fuoco indiscriminatamente contro studenti e professori. Testimonianze dicono quello che abbiamo visto è stato orribile, sparavano a tutti quelli che avevano di fronte. I media afghani, soprattutto Tolo News, spesso i loro giornalisti sono nostri ospiti, il primo media anche in lingua inglese afghano, hanno riferito che al momento dell'attacco si stava svolgendo una mostra di libri nei locali dell'università e quindi partecipavano non soltanto tanti studenti ma anche alcune personalità di spicco della vita politica e sociale afghane. Immediato l'intervento di sicurezza delle forze appunto di sicurezza afghane, che però hanno impiegato, come spesso accade in questi casi, 6 ore prima di liberare il compound universitario dagli aggressori. Secondo il portavoce del ministro dell'interno Tariq Aryan, il bilancio sarebbe 19 morti e 22 feriti. Spesso qui a Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo di attacchi indiscriminati verso la popolazione civile da parte presumibilmente dei talebani. È particolarmente simbolico l'attacco di quest'oggi perché avviene in uno dei luoghi sacri per la cultura dell'Afghanistan, una facoltà di giurisprudenza ancora più simbolica se volete. E quindi non resta che constatare ancora una volta come le forze di sicurezza afghane non riescono a garantire la sicurezza dei propri cittadini, nella fattispecie studenti e insegnanti, persino nella capitale. E a poco valgono, lasciatemelo dire, le condanne dei leader politici afghani che tuonano contro chi ha ordito e messo a punto questo attacco orribile e disumano. Per il momento non vi sono rivendicazioni, ma i talebani ci hanno abituato proprio a questa strategia. Un altro dossier che è stato molto caldo nei giorni scorsi, parlo degli eventi tragici che hanno insanguinato la Francia. Secondo fonti giudiziarie citate dall'agenzia di stampa francese AFP, tre uomini di 47, 35 e 33 anni che erano sospettati di aver aiutato l'attentatore di Nizza sono stati rilasciati domenica, però altre tre persone rimangono in custodia cautelare, tra cui un uomo che avrebbe seguito lo stesso percorso dell'attentatore: Tunisia, Italia e poi Francia. E a questo punto la macchina investigativa francese, ma anche italiana ed europea, si sta muovendo ad ampio spettro. Mentre la politica francese si recherà molto presto in Tunisia per ridiscutere quelle che sono le vulnerabilità evidenti a livello securitario di quella rotta migratoria e delle relazioni tra Tunisia e Francia, si sta indagando anche in Sicilia, ad Alcamo. Investigatori italiani stanno vagliando la posizione di un connazionale dell'attentatore che avrebbe ospitato l'uomo e lo avrebbe aiutato a cercare un lavoro in campagna. L'idea qual è sostanzialmente? Di capire se il tunisino 21enne, che è tuttora ricoverato in ospedale, abbia agito da solo o, come si pensa, una rete familiare allargata gli abbia consentito di portare a termine il suo folle attacco. Un'altra notizia che è particolare, perché si tinge di politica ma anche di società, di pari opportunità, arriva dalla Nuova Zelanda. Lo sapete, Jacinta Ardern è stata confermata premier dell'importante paese oceanico. Ecco, ha appuntato Nanaia Mauta come ministro degli esteri. A molti di noi probabilmente questo nome non dice moltissimo. Beh, innanzitutto è una donna, in secondo luogo è una nativa Maori e i tatuaggi che porta sul volto sono particolarmente evidenti. È la prima volta che una componente Maori raggiunge un livello di istituzioni così alto, pensate, addirittura rappresenta la politica estera neozelandese nel mondo. E in più la Ardern, che è particolarmente attenta alle questioni di genere, ha pensato anche di riequilibrare la compagine ministeriale con un ministro dichiaratamente gay. Ancora una volta la Nuova Zelanda, oltre ad aver gestito in maniera, secondo molti, impeccabile la pandemia da coronavirus, si dimostra all'avanguardia per quelle che sono le disparità di genere o etniche, che in altri paesi sono ancora ben lungi dall'essere risolte. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. L'idea è quella di tratteggiare quello che sta accadendo soprattutto in Francia, Germania e Regno Unito e capire se esiste una lezione dal sapore europeo sul fronteggiare questa seconda ondata di pandemia. Prima però vi porto di nuovo a Hong Kong, perché sette importanti esponenti del Partito Democratico all'interno del Legislative Council sono stati arrestati domenica a Hong Kong. L'accusa è di aver ostacolato una riunione del Consiglio Legislativo lo scorso maggio. Attenzione, al di là dei nomi che tra poco vi dirò, l'atto è molto molto grave e deve destare preoccupazione, perché per la prima volta la longa manus di Hong Kong, e attraverso la nuova legge speciale fortemente voluta da Pechino evidentemente, si abbatte anche sui membri del Legislative Council, che è l'equivalente, diciamo, del nostro Parlamento, fatte salve le debite proporzioni. Tra gli arrestati ci sono Wu Chi-wai, Andrew Wan, Elena Wong. I sette sono poi stati rilasciati su cauzione e in una conferenza stampa la sera stessa Wu Chi-wai, presidente del Partito Democratico di Hong Kong, ha dichiarato: le accuse mosse contro di noi sono assurde, hanno il solo scopo di spaventare l'opposizione a Hong Kong. Questi sono i nostri dossier internazionali, sono spunti, sono fatti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che saranno prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso andiamo al tema di quest'oggi: tre capitali europee diverse, tre lockdown leggermente diversi, ma la pandemia è una sola. Andiamo dritti al cuore della puntata di quest'oggi con la nostra copertina, curata come sempre da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi. In this country, alas, as across much of Europe, in questo paese, purtroppo, così come nel resto d'Europa, the virus is spreading even faster than the reasonable worst case scenario. Il virus si sta diffondendo anche più velocemente dello scenario peggiore che potevamo immaginare. And so now is the time to take action, because there is no alternative. Bisogna agire di conseguenza, perché non abbiamo più alternative. We're not going back to the full-scale lockdown of March and April. Non torneremo al lockdown di marzo e aprile, ma... But I'm afraid from Thursday the basic message is the same. Ho paura che da giovedì l'imperativo tornerà a essere questo per tutti. Stay at home. Stare a casa. Protect the NHS. Proteggere il sistema sanitario nazionale. And save lives. Salvare vite. Why wasn't this done weeks ago, if not months ago? Perché la richiesta di nuovi test è stata fatta solo pochi giorni fa e non mesi fa? When the government was first warned about the threat of a global pandemic. Quando il governo si è ritrovato per la prima volta davanti alla minaccia della pandemia globale. Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen. Stiamo assistendo a una crescita esponenziale dei casi. La pandemia si sta espandendo come non avevamo previsto. Questa settimana, ad esempio, i casi sono raddoppiati rispetto alla settimana scorsa. Chiediamo a tutti l'astensione dai viaggi e dalle visite, incluse le visite ai parenti, se non assolutamente necessario. Questo vale anche per le gite fuori porta. Ho deciso che a partire da venerdì occorre ripristinare il confinamento che ha bloccato il virus. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. L'insieme di queste misure dovrà trovare applicazione il prima possibile. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Tra giovedì e venerdì. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Almeno fino al primo dicembre. Avez-vous écouté le président de la République? Avete sentito il presidente della Repubblica? J'ai honte pour la fonction présidentielle. Car on n'a jamais vu, je crois. Ho provato vergogna per la funzione presidenziale perché credo non si siano mai viste tanta incompetenza. Autant d'incompétence, d'amateurisme, dilettantismo, d'autosatisfaction, autocompiacimento, d'inefficacité, inefficacia, de gesticulation e gesticolazione. E così, come al solito, in 90 secondi abbiamo provato a ricapitolarvi, a farvi viaggiare virtualmente, naturalmente, tra Berlino, Parigi e Londra per capire quelle azioni di lockdown, in alcuni casi più serio, in alcuni casi più leggero, si stanno per, in alcuni casi già messe in atto, in altri casi si metteranno in atto per cercare di contenere la pandemia. Prima di andare a Berlino, cerco di rispondere brevemente a un po' di sollecitazioni che arrivano al 349-238-6666 da un po' di ascoltatori sui temi dei nostri dossier internazionali. In particolare c'è un messaggio interessantissimo: a fronte di questi continui attentati, stiamo parlando dell'Afghanistan, particolarmente grave quello di oggi, scrive un ascoltatore, contro il simbolo della cultura del diritto, come potrà l'Unione Europea continuare a sostenere che l'Afghanistan sia un paese sicuro e insistere nel rimpatrio dei richiedenti asilo? Secondo la John Way Forward, i rifugiati afghani provengono spesso da aree controllate dai talebani, di cui fanno un racconto allucinante. Così Alessandro, che giustamente punta il dito su quella che è stata, secondo molte organizzazioni del terzo settore, una politica fallace. Ricorderete, c'è stato un momento in cui anche alcuni piloti delle linee aeree tedesche si rifiutavano di effettuare i rimpatri, sostenendo che appunto l'Afghanistan non era affatto sicuro. Queste recrudescenze di violenze, ne siamo certi, senza sfregare la sfera di cristallo, porteranno a un flusso maggiore di rifugiati afghani, questo è evidente. Vi ho citato Kabul, ma avrei potuto citarvi Helmand, la regione di Helmand, un ennesimo attacco, anche lì con morti e feriti. Qualcuno si lamenta del fatto che quest'oggi non stiamo attaccando Donald Trump. Cosa è successo? Sapete già che i sondaggi sono fasulli, scrive ironicamente un ascoltatore. Dedicheremo naturalmente la giornata di domani, la puntata di domani e quella di dopodomani, proprio alla preparazione e alla ai risultati, se ci saranno, ce lo auguriamo naturalmente, della tornata elettorale. 349-238-6666. Stigmatizzo invece il messaggio che arriva da un ascoltatore: minoranza maori e poi un gay, quindi sono bravissimi per definizione. No, gentile ascoltatore, qua si tratta di minoranze che per definizione e fino a questo momento dalla maggior parte, da tanti stati dell'Occidente, sono stati ostracizzati e lasciati fuori dalla politica. E questo invece è un segnale molto molto importante, a mio parere. Vi dicevo, è il momento di iniziare questo nostro viaggio, partiamo da Berlino. Come si comportano le opposizioni politiche all'estero? Anche questo è uno spunto molto interessante che arriva da parte vostra, gentili ascoltatrici e ascoltatori, ma fatemi dare il ben ritrovato nel suo luogo lontano a Daniel Mosseri, giornalista freelance da Berlino. Lo potete leggere fra gli altri sul Foglio, Panorama e Il Giornale. Daniel, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Allora Daniel, Angela Merkel, la cancelliera, ha parlato giusto due ore fa direi, ha usato parole non esattamente rassicuranti, ha detto siamo dentro un tunnel, ci vorrà parecchio per rivedere la luce. Cos'altro ha detto che non fosse già atteso rispetto al lockdown light, come titolano la maggior parte dei giornali, in cui la Germania è ormai da ieri? Grosse sorprese non ci sono state. Quando la settimana scorsa la cancelliera ha annunciato il lockdown light, ha detto che ci sarebbe voluto tempo e che avrebbe fatto il punto di nuovo dopo 2 settimane, quindi fra 10 giorni, con i 16 ministri, primi ministri dei Länder tedeschi. E questo lo vediamo anche dai dati. Oggi i dati del Robert Koch Institute parlano di 12.000 nuove infezioni contro una media di 10.000 la settimana scorsa, e il Robert Koch Institute sottolinea sempre che il lunedì i dati sono un po' più bassi perché la domenica si fanno meno tamponi, per cui effetti positivi nel senso di un rallentamento dei contagi ancora non si vedono, per cui è giusto, nella prospettiva della cancelliera, tenere i tedeschi sul chi va là e avvertirli che siamo solo all'inizio di un percorso più lungo. Allora, le restrizioni, prova a ricapitolarle, ma se faccio qualche errore sconfessami naturalmente, Daniel. Tutti i ristoranti e bar saranno chiusi, chiusura di palestre, piscine, centri recreativi, riunioni in pubblico, massimo 2 nuclei familiari, ma scuole e negozi rimangono aperti, permesse le funzioni, esatto, religiose, no divieto a manifestazioni e proteste. Il ministro della salute, aggiungo l'ultimo tassello e poi ti sollecito su un aspetto e iniziamo a abbracciare anche l'aspetto più strettamente culturale e sociale. Il ministro della salute, Spahn, ha esortato i cittadini a ridurre in modo significativo i contatti. Il ministro della salute esorta. Come rispondono i cittadini tedeschi? I cittadini tedeschi sono abbastanza oramai abituati e tutto sommato vivono questo secondo lockdown con maggiore serenità, soprattutto perché le scuole sono aperte, il che permette alle famiglie di respirare, e questa sensazione si può vedere anche nei sondaggi, non so se sono tutti falsi appunto, come diceva l'ascoltatore, ma c'è l'ultimo sondaggio della CDF, il secondo canale della televisione pubblica, che dice che l'80% dei tedeschi è convinto che il paese ce la farà, quindi c'è ottimismo diffuso, e il 54% ritiene le misure del governo adeguate, e anzi un altro 30% le vorrebbe più severe, più drastiche. Corollario, Merkel resta il personaggio politico più popolare e sostanzialmente i tedeschi la seguono nella sua lenta marcia contro il coronavirus. Daniel, hai introdotto uno dei temi che vorremmo toccare in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. In momenti di crisi e in momenti di tempesta, a guidare la nave c'è il capitano, e se il capitano sa reggere bene il timore nei momenti di tempesta, allora è un buon capitano. La leadership evidentemente è un aspetto fondamentale negli stati di emergenza. Da quello che ci racconti, da questo punto di vista, Angela Merkel non è assolutamente messa in discussione. Ma l'atteggiamento dell'opposizione com'è? L'atteggiamento dell'opposizione è cauto, per lo stesso motivo spiegato dal sondaggio. Siccome la maggior parte, la grande maggioranza dei tedeschi è con la cancelliera, andare contro sarebbe suicida, tant'è che oggi solo Alternative für Deutschland, il partito populista AfD, è sostanzialmente contrario a queste misure, ma sono anche un partito molto poco ascoltato. Esiste una convenzione ad Excludendum, loro non parlano con nessuno, parlano solo con gli elettori, ma gli altri politici non parlano con loro. E i liberali hanno provato un pochino a protestare dicendo che si trattava di misure esagerate, ma non hanno avuto nessun riscontro. I verdi sono in attesa di formare il prossimo governo, sì. I sondaggi saranno rispettati l'anno prossimo con la Merkel, per cui nessuno veramente alza troppo la voce contro queste misure. La voce che state ascoltando vi arriva da Berlino, è quella di Daniel Mosseri, giornalista freelance, tra gli altri Foglio, Panorama, Giornale, nostro gradito ospite quest'oggi per iniziare a mettere un po' di tasselli. Esiste un modello tedesco, esiste un modello britannico oppure francese, o piuttosto quello europeo? C'è un messaggio interessante di un ascoltatore che su Facebook scrive: servirebbe un coordinamento unico europeo per scambiarsi informazioni sulla pandemia e eventuali azioni congiunte che si potrebbero intraprendere, così come serviva un'app di tracciamento unica europea e la ricerca di un unico vaccino europeo, ma purtroppo ancora oggi prevalgono egoismi nazionali e spese non sufficienti se sostenute solo a livello nazionale. Così un ascoltatore abbraccia in qualche modo una visione europea. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Arturo, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Tra pochissimo con te metteremo il grandangolo proprio per capire se dal punto di vista europeo è utile e possibile tracciare una ricetta. Però torno da Daniel Mosseri per l'ultima domanda. Uno dei tasselli che noi ipotizziamo qui Nessun Luogo Lontano sia fondamentale nella gestione di stati di emergenza sia anche la struttura statuale e anche amministrativa. Ecco, avere un governo federale, uno Stato federale, è un ostacolo, io penso, come dire, alle frizioni tra Stato e Regioni in Italia. Si hanno gli stessi tipi di dinamiche, qualcuno potrebbe dire scaricabalie, da una parte e dall'altra, o come dire, gli Stati federali riescono a dialogare costruttivamente con lo Stato centrale tedesco? Questa è una domanda molto interessante, perché sembrava negli ultimi mesi che ci fosse più conflittualità tra lo Stato e i Länder. Länder che tanto più sono più forti delle regioni italiane perché hanno più competenze, e alla fine la Repubblica si chiama federale. E Merkel era entrata nella riunione la settimana scorsa preoccupata di non riuscire a convincere i vari governatori della necessità di avere un lockdown uguale per tutti, e sembrava lei stessa sorpresa. È stata lei ad annunciarlo: abbiamo un lockdown contro il quale nessuno ha nulla da ridire, sono tutti a favore. Era particolarmente soddisfatta la cancelliera, perché effettivamente era entrata in riunione tra le proteste di alcuni governatori dei Länder orientali, quelli della ex DDR, che essendo molto meno popolati hanno tassi di contagio più bassi, per cui i governatori non volevano. Bisogna anche dire che la cancelliera ha dei metodi molto, molto buoni per convincere sia gli elettori che gli altri politici degli altri livelli. Il ministro delle finanze ha staccato un assegno da 10 miliardi, oggi ho parlato con diversi ristoratori berlinesi, non tutti contentissimi, tuttavia dovrebbero riavere tra il 75 e l'80% del fatturato che avevano a novembre del 2019. È una misura che certamente è un ristoro, certo, però certamente un ristoro di buon corpo, per stare nella metafora enogastronomica, come sembra un buon primo piatto, quantomeno, ecco. Esatto. Grazie mille a Daniel per essere stato con noi. Lo ricordo, Daniel Mosseri, giornalista da Berlino, ci ha restituito una efficace, sintetica fotografia di come la Germania sta affrontando il lockdown light, leggero, come è stato definito da qualcuno. Daniel, buona giornata e buon lavoro. E grazie a voi. Arturo Varvelli, ci sono un po' di sollecitazioni da parte degli ascoltatori, alcuni al vetriolo, ma te ne leggo una simpatica, poi dopo l'informazione finanziaria riprendiamo proprio da qua. Caro Giampaolo, ma non è che la Merkel può occuparsi pure dell'Italia, anche in smart working, così Ale da Imola, un po' ironico, forse irriverente verso il nostro governo. Vi lascio con queste sollecitazioni, la borsa, poi la seconda pagina di Nessun. Nessun luogo è lontano. Leadership, non belligeranza dell'opposizione, aspetti culturali, questi sono alcuni degli elementi, degli ingredienti che uno Stato che affronta in maniera virtuosa la seconda ondata potrebbe emergere. Alcuni di questi elementi sicuramente li abbiamo ritrovati anche dalle parole di voi ascoltatori nel caso tedesco. Torno da Arturo Varvelli, che dirige l'European Council of Foreign Relations di Roma. È sufficiente questo, Arturo? Una leadership riconosciuta, un'opposizione che collabora e poi degli aspetti culturali, delle società che rinnovano il patto con la politica? Ah, penso che tu abbia già sostanzialmente detto le cose principali. Io penso che sia necessario un sistema efficiente. Mi sembra che questa pandemia stia mettendo alla dura prova l'efficienza dei paesi. E chi è più efficiente e preciso e puntuale nella risposta, naturalmente ha meno ricoverati, di conseguenza meno terapie intensive e alla fine anche purtroppo meno morti. Sì. Meglio meno morti. Quindi all'inizio pensavamo che gli stati autoritari potessero dare una risposta maggiore, migliore rispetto agli stati democratici, però non è solo quello, non è solamente quello, perché abbiamo visto ad esempio in Asia una risposta molto efficiente da parte di democrazie come Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Australia, sì, eccetera. Sì. Poi le leadership forti non sempre ci come dire ci garantiscono una risposta efficiente, no? Personaggi con un forte carisma come Trump, Bolsonaro, Putin non mi sembra che siano stati però in grado di contribuire a una maggiore efficienza nella risposta alla pandemia. Certamente tu hai toccato un tema che è quello delle società. Io penso che le democrazie occidentali in questo momento stiano vivendo negli ambienti sociali e politici molto polarizzati, e questo non facilita una politica bipartisan. Facilita il fatto che le decisioni del governo, dei governi di qualsiasi colore siano, vengano messe in discussione dall'altra parte. Certo. Ma poi soprattutto mi sembra che alla fine non vi sia la fiducia nella capacità del governo. Se il cittadino ha fiducia nella capacità del governo, perché il governo è capace in qualche maniera di garantire una delle principali funzioni dello Stato, che è quello di garantire l'incolumità fisica, allora la risposta può essere efficiente. Ma se non c'è questa, se lo Stato non è in grado di garantire l'incolumità fisica, come abbiamo visto nella prima ondata, e quello passi, ma sono passati diversi mesi e ancora lo Stato non è in grado di garantirla per una mancata efficienza, allora il rapporto tra Stato e cittadino insomma si incrina notevolmente, e vediamo le scene insomma per adesso piuttosto contenute per fortuna, però di rivolte, di proteste, insomma di disagio che abbiamo visto in Italia, ma non solo, perché questo certo. È successo a Madrid, è successo a Parigi e anche in altri luoghi. Quindi insomma mi sembra che siamo tutti solo nella stessa barca da questo punto di vista, e lo Stato deve essere maggiormente efficiente, deve riacquisire la propria funzione statale importante, che è quella appunto di garantire l'incolumità fisica del cittadino. Certo, e alla quale i fattori che dicevi riaggiungiamo appunto quella stretta di mano che forse va rinnovata, naturalmente adesso non si può, ma virtuale, tra Stato appunto e cittadinanza, tra il governo e la società civile. Abbiamo trasformato Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Relations, in fotografo, perché ha messo il grand'angolo, l'ha fatto come al solito in maniera molto incisiva. Grazie mille Arturo per essere stato con noi, buona giornata. Grazie, e buon lavoro. Se abbiamo analizzato, pur in maniera fugace, quella che è la situazione particolarmente complessa anche delle relazioni tra i vari Länder tedeschi e il governo centrale, in Regno Unito ritroviamo un po' di queste dinamiche, perché appunto abbiamo gli stati che compongono il Regno Unito, e poi abbiamo, a proposito della fiducia, un Boris Johnson che si prepara a ricevere gli stessi attacchi del suo partito, complice forse la non brillantissima gestione della prima ondata. Andiamo a scattare una fotografia inglese, lo facciamo con la voce di Giorgia Scaturro da Londra, giornalista, producer. Giorgia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Allora, aiutaci a capire se la foto che arriva da Londra è paragonabile in qualche modo a quella che arriva dalla Germania. Che tipo di lockdown, di che tipo di lockdown stiamo parlando? E soprattutto illuminaci con questa immagine quelli che sono i chiaroscuri su alcune realtà in particolare, penso al Galles per esempio e alla Scozia. Ebbene, in questi momenti, mentre noi parliamo, il primo ministro Boris Johnson sta affrontando i comuni, cercando di convincerli del perché giovedì prossimo dovrà esserci un lockdown. I comuni poi voteranno mercoledì. Di fatto sappiamo che Johnson è già apparso proprio la sera di Halloween con l'infausta richiesta per la seconda volta: state a casa. E questo dopo un'ennesima inversione di marcia. Aveva già detto che un secondo lockdown sarebbe stato disastroso o sbagliato per il paese. Quindi questa è un po' la direzione in cui stiamo andando. In Inghilterra giovedì si ricomincia con il secondo lockdown, mentre, come ricordavi, nei governi devoluti di Galles, della Scozia, dell'Irlanda del Nord, si è fatto un po' come volevano i rispettivi primi ministri. Diciamo, questo conferma quella che è la sensazione dei cittadini, ma anche del settore produttivo, le imprese, di una forte inaffidabilità del primo ministro Johnson nel ignorare innanzitutto il Consiglio della Scienza, che già il 21 settembre aveva consigliato di entrare in un lockdown nazionale per evitare quello che ha ricordato pochi secondi fa ai comuni Boris Johnson, è il raddoppio del numero dei decessi previsto per questo inverno. L'annuncio che ci stava raccontando Giorgia Scaturro arriva la notte di Halloween. Se ancora Johnson avesse, come dire, le energie per affidarsi allo humor nero, avrebbe potuto dire né dolcetto né scherzetto, perché stiamo parlando veramente di cose serie. Però ci sono degli aspetti, Giorgia, che volevo indagare con te. Il primo ministro gallese Mark Drakeford ha dichiarato che il confine Galles-Inghilterra non è mai stato così chiuso da secoli. Intanto la Scozia dice: potremo adottare un nuovo lockdown completo se il sistema di welfare garantirà l'80% degli stipendi ai lavoratori rimasti a casa, così come il Tesoro in Inghilterra prevede. E la domanda che ti faccio è questa: che tipo di rapporto c'è tra Londra e Edimburgo e il Galles? Il Regno Unito è ancora unito durante questo strano lockdown che si sta profilando? La risposta semplice è no. È un regno sempre più disunito. Ricordiamo fra le divisioni fra la Scozia e l'Inghilterra e Downing Street sono già molto note, già si è tentato un secondo referendum, la Brexit ha dato una mannaia ulteriore sui rapporti tra Dublino e scusate, Edimburgo e Londra. Il Galles in queste ultime settimane addirittura la chiusura delle frontiere cercando di evitare qualsiasi rapporto fra l'Inghilterra e i contagiati inglesi e dentro il Galles. Sì. Ovviamente la faccenda si sposta sul fattore economico, ricordiamoci che in ballo appunto ci sono posti di lavoro, 2 milioni di posti di lavoro sono ancora in cassa integrazione, un pacchetto di misure che ha costato 210 miliardi a Downing Street e che e proprio in questi giorni si intendeva la chiusura del sistema di cassa integrazione che il ministro, il cancelliere dello scacchiere Sunak è stato costretto ora a estendere. Resta da capire come verranno reperite questi fondi anche per i governi devoluti di Scozia e Galles. Si sa già per ora che alla fine dell'anno i prestiti saranno saliti a un record di 300 miliardi e quindi ci sono già le rivendicazioni di Scozia, Galles, che per capire quale sarà la sorte, certo, dei lavoratori, ovviamente in un momento in cui tutti sono chiamati a lavorare da casa si possono evitare i trasporti, uscire il meno possibile, sta diventando una questione economica assolutamente drammatica. Solo pochi mesi fa, ad aprile, il record economico, una restrizione del PIL del 20%, per ora si parla con un nuovo lockdown, rimarremo sui livelli di un meno 5%, comunque siamo sempre a livelli estremamente alti, un'economia particolarmente afflitta da questo coronavirus. Grazie mille Giorgia Scaturro, la fotografia molto più tinteggiata di ombre rispetto a quella tedesca e molti ascoltatori lo sottolineano. Grazie Giorgia Scaturro per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. 349-238-6666, tra pochissimo vi darò conto dei vostri commenti e tra pochissimo, ve lo anticipo, andremo a Parigi per l'ultima tappa di questo viaggio. Intanto andiamo sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima tappa del viaggio di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano, Parigi, Berlino, Londra, adesso andiamo a Parigi per cercare di analizzare il cocktail che è in parte sociale, in parte politico, in parte economico e anche sanitario, di come alcuni importanti paesi europei stanno reagendo alla cosiddetta seconda ondata. Secondo le parole di Arturo Varvelli, e segnatevi questi hashtag, è rinnovare il patto evidentemente tra governanti e governati. Alcuni di voi al 349-238-6666 sottolineano gli aspetti anche di diversità strettamente culturale. Qualcuno scrive: il popolo tedesco è diverso da quello italiano. Anche l'abitudine alle indicazioni, all'esortazione, al rispetto delle norme è totalmente diverso, e sicuramente questo è un tassello. Ma in questa puntata, in questo programma in particolare, cerchiamo di capire come ancora una volta la seconda ondata del coronavirus sia un acceleratore in parte di nuovi assetti geopolitici, in parte di crisi politica interne, lo ha ben detto Giorgio Scaturro. Quel Regno Unito, ormai forse i libri di storia ci consegneranno nuove allocuzioni verbali per definirlo, regno quasi disunito, chissà. Andiamo brevemente e velocemente a Parigi, lo facciamo con la voce di Danilo Ceccarelli. Danilo, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a voi. Danilo, ti chiederei innanzitutto un altro aspetto con te, lo toccherei, che non abbiamo toccato: come la stampa francese sta raccontando il lockdown e il Covid-19 in generale, perché in Italia spesso si assiste a un come dire, ipertrofia da titolo da prima pagina, Covid un po' dappertutto e magari ci dimentichiamo altri pezzi di realtà. Lì i francesi come lo raccontano? Beh, anche qui in Francia, sui principali quotidiani, ovviamente il Covid campeggia e fa grandi titoli, ma ricordo che in questi ultimi giorni la Francia è stata segnata anche da molti altri eventi. Ricordo ovviamente prima di tutto gli attentati, ma anche le tensioni internazionali che il presidente Macron ha dovuto affrontare, soprattutto contro il suo omologo turco Erdogan. Quindi il coronavirus non è l'unico problema dell'Eliseo, non è l'unico problema di Parigi, ma senza dubbio è un problema che colpisce direttamente il quotidiano dei francesi, anche se bisogna ricordare che la stretta, che è cominciata venerdì e durerà almeno fino al 1° dicembre, non è rigida come quella applicata nel marzo scorso. Questa volta infatti camminando per le strade di Parigi non si vedono le strade deserte come erano nella scorsa primavera, le scuole sono aperte, questo è un fattore fondamentale, molte persone si recano al lavoro, gli esercizi commerciali definiti essenziali continuano il loro lavoro, come ad esempio supermercati, ma anche cartolerie. Dal punto di vista molti ascoltatori, si vede che è uno dei temi, evidentemente ci chiedono conto dei ristori, soprattutto dei ristoratori. Ci sai dire qualcosa su quanto quell'aspetto, no, dei ristoranti? Sappiamo per esempio che a Parigi si vive molto per strada anche d'inverno, i bistrò, i bar, anche se c'è meno 10 si sta fuori, si beve il caffè o si stappa la bottiglia. Ecco, quel settore lì è stato duramente colpito, evidentemente. Esattamente, bar e ristoranti sono costretti a chiudere, anche se possono organizzare vendite da asporto. Alcuni bar si sono anche organizzati rimanendo aperti, ma non senza lasciare entrare i clienti. Appunto, c'è chi passa, chi magari ordina un caffè e lo beve camminando in strada. Chi ha veramente tra l'altro ricordo che il governo ha previsto importanti aiuti per questi settori. Chi invece ha protestato in queste ultime ore sono quei commercianti costretti a chiudere perché i loro prodotti sono stati considerati non necessari. Questa categoria ha fortemente protestato contro la concorrenza sleale di siti di e-commerce come ad esempio Amazon, ma anche quella dei grandi supermercati che sugli scaffali continuano ad esporre, a mettere in vendita quei prodotti appunto non essenziali. Certo. Nella serata di ieri il primo ministro Jean Castex è stato quasi costretto, direi, vista la fronda che si è andata a creare, a intervenire ai microfoni di TF1 dicendo che le misure prese non cambiano, ma a partire da domani, questo martedì, nei supermercati chiuderanno tutti quei reparti appunto dove vengono venduti prodotti non necessari, quindi ad esempio reparti come quelli dell'abbigliamento, della bigiotteria o degli elettrodomestici. Tra l'altro è interessante vedere che questo scontro si sta, anche seppur in termini ancora minimi, si sta trasformando anche in uno scontro politico, perché in alcune città ci sono dei sindaci che hanno permesso ai negozianti di rimanere aperto attraverso dei decreti municipali. Quindi ecco, vediamo come... E qua si ripropone, ti interrompo, perdonami, Danilo Ceccarelli da Parigi, si ripropone quello scontro tra autonomia locale e governo centrale a cui abbiamo fatto riferimento, parlando dei Länder tedeschi, parlando dei vari stati del Regno Unito. Vorrei farti un'ultima domanda, abbiamo credo un minuto e mezzo prima di chiudere. Il ruolo dell'opposizione, perché poi alla fine è vero, parliamo di Covid-19, ma lo stiamo cercando di raccontare come grande acceleratore o di crisi o di unioni politiche. Cosa fa l'opposizione francese? Rema contro Macron o dà sostegno? Beh, l'opposizione francese in questi ultimi 3 anni ha quasi sempre remato contro il presidente Macron. In questo momento ovviamente ad essere sotto il fuoco delle critiche c'è anche soprattutto la gestione. Tra l'altro ricordo che in questo momento in Francia sono disponibili 5.800 posti letto in rianimazione contro i 5.050 del primo lockdown. Sì. Una cifra importante ma comunque molto lontana, certo, da quella promessa a fine agosto dal ministro della salute Véran, che aveva promesso appunto 12.000 posti letto. Ci sono molti esponenti dell'opposizione che appunto battono su questo tasto che continua ovviamente a far male. Certo, io ringrazio tantissimo Danilo Ceccarelli, la sua fotografia l'ha scattata a Parigi, ce l'ha inviata con la sua voce a molti punti d'attinenza, ai noi, anche col sistema italiano, ma soprattutto con Francia e Inghilterra, per contiguità o per antitesi. Danilo Ceccarelli, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Intanto al 349-238-6666 tanti messaggi. Alcuni di voi invocano una presa di posizione da parte dell'Unione Europea generale. Un ascoltatore prima diceva, per esempio, l'app Immuni, la cosiddetta app Immuni doveva essere europea a tutti gli effetti, invece solo recentemente l'app Immuni italiana, si parla con quella irlandese, con un altro caso che adesso vi chiedo scusa, non ricordo, comunque soltanto paesi. Siamo quasi in chiusura, allora per una volta, senza correre, io prego Valeria Bernardi di lanciare con la consueta delicatezza i suoi titoli di coda. You're fired, you're fired, you're fired. Che naturalmente verranno smontati dopo il 3-4 novembre, sia che vinca Donald Trump, sia che perda ovviamente. Daremo una nuova voce, una nuova veste a questo programma. Grazie mille a voi tutti per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.